Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, stamattina abbiamo un bel meno 0,5% a Milano, un bel meno 0,4% a Parigi, un bel meno 0,23% a Francoforte e qua a 50 centesimi per il caffè che mi ha appena portato Marco. Do un po' i numeri. Buono, stamattina, sì. Sono stanca, cosa dici? Sì, ma mi vedi che sono un po' sbattutina in faccia? Anch'io sono un po' sbattutina, prendiamoci un po' di giorni di ferie. Il primo maggio non ci siamo. Ci siamo, ma non ci siamo. Ci siamo con un meglio di. Vedi che diamo i numeri stamattina. A proposito di numeri, sì? Lo sai quante persone soffrono di rinite allergica nel mondo? Ma secondo te i miei occhi gonfi sono dovuti a quella stamattina? Potrebbe, però non. Dici, fammi una bella diagnosi. Non mi colla il naso, allora ti non viene è il quella. Raspino, no. Quanti ce ne saranno in tutto il mondo, dici? Beh, qualche milione, però la cifra esatta non te la saprei dire, dimmela tu. E quanti di asma? E lo stesso. E allora penso va bene. Che qua, guarda, allora qua ci vuole un esperto, perché i numeri sono alti, ma sono vogliamo importanti. Molto. In linea con noi abbiamo il dottor Alessandro Fiocchi, responsabile del reparto di allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Buongiorno. Di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Ci dà lei qualche numero, perché i numeri, si parla di uno tsunami allergico, sono davvero tante le persone che soffrono di rinite allergica nel mondo e di asma. Quante? Sono davvero tante le persone che ne soffrono nel mondo, e si parla di 400 milioni di persone, ah, le stime sono molto conservative e soprattutto è una patologia che è in aumento dal punto di vista dell'allergia, cioè le rinite allergiche sono nettamente in aumento, mentre è in plateau per quanto riguarda l'asma, e lo tsunami si riferisce alle allergie alimentari. Sì, che sono anche molto, molto in crescita, è una fonte di preoccupazione soprattutto tra i più piccoli, perché ho letto che almeno un bambino su 20 è allergico a uno o più alimenti. A questo tema, professor Fiocchi, dedicherete molta attenzione durante il congresso dell'Organizzazione Mondiale delle Allergie, che si apre proprio oggi e al quale partecipano, oltre, a proposito di numeri, 500 medici e ricercatori provenienti da 50 paesi del mondo. Professor Fiocchi, lei è presidente e quindi può darci qualche anticipazione riguardo soprattutto alle nuove linee guida mondiali per la diagnosi e il trattamento dell'allergia al latte, o meglio dovrei dire l'allergia alle proteine del latte, un problema tra i più frequenti nell'infanzia. Intanto ci aiuti a capire se questa reazione può essere pericolosa per la salute del nostro bambino e soprattutto come possiamo fare per riconoscerla, insomma come si presenta. La reazione può presentarsi in molti modi, può presentarsi con disturbi gastrointestinali, vomito, diarrea, può presentarsi con dermatite atopica, può presentarsi con orticaria. La reazione si presenta spesso con l'anafilassi, dove per anafilassi si intende che un bambino, specialmente le prime volte che prende il latte, sviene completamente dopo aver preso il latte e si gonfia. E può avere una reazione veramente a rischio vita. Quindi parliamo, il bambino che inizia a prendere il latte vaccino è un bambino che ha quanti mesi, professor Fiocchi? Dipende da quanto dura il latte di mamma, ma questa reazione avviene anche con il latte formulato naturalmente, cioè con il latte speciale per il lattante. Quindi se lo prende a un mese la può avere a un mese, se la mamma ha tanto latte lo può prendere la può avere a 12 mesi. In quel caso gli succede la prima volta che mangia il formaggio nella pappa, perché le responsabili, come dicevate giustamente voi, sono le proteine. Le proteine del latte sono contenute anche nei formaggi, nei dolci e in tante altre cose buone a cui questi bambini debbono poi rinunciare. Comunque l'allergia alle proteine del latte non deve essere sospettata solo davanti a reazioni molto gravi, ma, professore, come lei ha anticipato, anche quando il bambino ha magari diarrea frequenti, eczema, anche una scarsa crescita, oppure anche l'asma. Una scarsa crescita può manifestare questo sintomo. E sono bambini che non crescono e diventano anemici. A me ne è capitato proprio uno pochi mesi fa, che ha dovuto subire delle trasfusioni, non sapeva la mamma che era allergico al latte e questo bambino continuava a diventare sempre più debole, è diventato anemico perché il suo intestino perdeva sangue continuamente in maniera inapparente per via dell'allergia al latte. Comunque non è un problema questo che si presta a soluzioni fai da te, perché il rischio è alto, professor Fiocchi, questa è una raccomandazione che si fa a tutti i genitori, ma quali sono i test che permettono di fare diagnosi, che cosa dicono le linee guida? Le linee guida dicono che i test che servono sono i test di sensibilizzazione, quindi quelli sulla pelle, le classiche goccioline, quelli sul sangue, il dosaggio delle IgE specifiche, e il test da carico. Per essere sicuro di avere un'allergia al latte bisogna che i sintomi siano riprodotti in condizioni controllate. Questo mi permetta, Nicoletta, di sottolinearlo molto, perché molti genitori e forse anche qualche pediatra usano togliere il latte a bambini sulla base del solo sospetto. Sì. Questo realizza un danno per loro, perché stare senza latte, come dicevamo, è una prigione dalla quale un bambino vuole sempre uscire. Luca ci scrive un messaggio al 349-238-6666 chiedendo come fa a sensibilizzarsi un bambino di un mese. Professor Fiocchi. Questa è una bella domanda. Alcuni nascono già sensibili, cioè i giochi vengono fatti prima della nascita. Altri possono sensibilizzarsi perché durante la loro vita nell'isola neonatale, in neonatologia, in attesa della montata latte viene dato loro del latte formulato, quindi del latte vaccino. Altri ancora si possono sensibilizzare per la via cutanea. Certamente l'evento è molto veloce quando capita, quindi non sono pochi bambini anche di un mese che hanno questo problema. Se volete intervenire 800 24 00 24, ci scrive naturalmente un altro ascoltatore, sarebbe ora di capire che le proteine animali vanno eliminate dalla dieta. Questa è una posizione un po' estrema, professor Fiocchi. Che magari viene forse estrema, sì. Però non ha torto quell'ascoltatore quando dice che se osserviamo tutti i mammiferi dopo aver smesso il latte di mamma non prendono mai più il latte nella loro vita e prendono solo quello della loro specie, ma nella nostra cultura gastronomica naturalmente fanno parte proteine animali e particolarmente gradevoli, quindi penso che proporre a una popolazione, specialmente a quella italiana, questa soluzione sia fuori dalla realtà. L'allergia, professore, alle proteine del latte vaccino si estende necessariamente alle proteine del latte di altri animali? Molto spesso sì. Quasi sempre sono allergici al latte di capra e di pecora. Sì. Molto spesso sono allergici al latte di asina e di cavalla. Più raramente sono allergici al latte di cammella, che sta venendo studiato. Alcune comunicazioni che abbiamo al congresso parlano di questo argomento come possibile sostituto del latte in questi bambini. Pensa, tu l'hai mai assaggiato il latte di cammella? Immagina, il latte di cammella, per la tua colazione una bella tazza di latte di cammella. Tu lo sai che sono andata sui vegetali per... No, ma per fortuna noi abbiamo alternative anche vegetali al latte. Certo. E anche per bambini piccoli, per esempio abbiamo delle formule di riso che sono perfettamente equilibrate dal punto di vista nutrizionale, che non vanno confuse, questo gli ascoltatori lo devono ben tenere presente, con la bevanda di riso, quella che si trova in erboristeria o quella che si trova in farmacia. Sì. Il latte di riso per i bambini è un latte in polvere specificamente preparato per loro. E si acquista? E si acquista in farmacia o anche ai supermercati, ma deve essere una formula per l'infanzia, altrimenti pensando di dar da mangiare al bambino stiamo solo dandogli da bere. E possiamo creare dei casi, ne abbiamo visti, di kwashiorkor vero e proprio in pieno 2017 in un paese sviluppato come l'Italia. Quindi, ricapitolando, se il bambino, i test servono appunto per evidenziare, per fare una diagnosi corretta, è allergico alle proteine del latte, non deve prendere il latte, formaggi, dolci, gelati, ma ci scrive un ascoltatore, il lattosio, professor Fiocchi, in realtà il lattosio è uno zucchero, quindi in teoria non dovrebbe dare problemi o no? In realtà è così, il lattosio è uno zucchero, l'intolleranza al lattosio è una condizione completamente diversa dall'allergia alle proteine del latte, colpisce gli adulti più che i bambini, l'intolleranza al lattosio, e chi è intollerante al lattosio può prendere un latte delattosato senza problemi, tranne alcuni rarissimi casi di bambini molto allergici alle proteine del latte, anche di questo abbiamo comunicazione nel congresso, in cui la minima quantità di proteine, ma proprio infinitesimale, che viene trascinata dal lattosio determina la reazione. Allora un bambino reagisce al lattosio non per lo zucchero, ma per le proteine che il lattosio entra. Trasporta. È capitato in alcuni casi qui da noi e la cosa interessante è che anche il lattosio nei farmaci può dare questo problema. Professore, lei l'ha anticipato, il latte può essere va sostituito e abbiamo parlato del latte di riso specifico per l'infanzia, ma non tutti i sostituti sono uguali. Come si fa a scegliere quello giusto per il bambino? Chi può farlo e quali sono le indicazioni? Se fosse facile non faremmo le linee guida. Le indicazioni nascono proprio dalla esperienza delle reazioni che ciascuna formula può dare alle altre. Nel caso di ciascun bambino. Allora, il primo sostituto per i bambini con un'allergia al latte non particolarmente grave sono gli idrolisati di proteine del latte, cioè molecole fatte con il latte, predigerite, gli si toglie l'allergenicità e il bambino li può mangiare. Quello nutrizionalmente è perfetto. Se reagisce anche quello, o le formule di riso o in casi gravi le miscele di aminoacidi sono un sostituto adatto. Di sicuro non si può lasciare un bambino al di sotto dei 2 anni senza un sostituto delle proteine del latte, altrimenti gli creeremo un malassorbimento o, per meglio dire, una malnutrizione. È una delle poche allergie che in alcuni casi guarisce, me lo conferma professor Fiocchi, prima di lasciarla andare al convegno. È un eufemismo, perché guarisce quasi sempre, questo i genitori lo dovrebbero sapere. Allora noi comunque, per chi non lo sapesse, diamo anche questa notizia e quindi ringraziamo il professor Fiocchi per essere stato con noi. Buon convegno, buone linee guida e per ulteriori aggiornamenti, professor Fiocchi, lei sa che noi siamo qua e la invitiamo volentieri. grazie entrambe. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco. Cuore e denari. E siamo tornate insieme a Cuore e denari. Eccoci. E allora affrontiamo un altro tema: malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, artrite, lupus, psoriasi, dermatite, asma e BPCO. Sono malattie diverse che hanno un denominatore comune: il malfunzionamento del sistema immunitario. Malattie su cui la ricerca si concentra per trovare soluzioni e cure sempre più mirate, naturalmente per ridurre la disabilità, ma con l'obiettivo di acquisire conoscenze tali da intervenire prima che insorgano. La posta in gioco è alta, la sfida è alquanto complessa e noi siamo lieti di avere in linea con noi uno tra i massimi esperti in questo campo, il professor Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e prorettore docente di Humanitas University. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Professore, lei ha dimostrato con i suoi studi che le malattie non sono sostenute esclusivamente da agenti infettivi, ma anche da un dialogo sbagliato fra le cellule del sistema immunitario. Allora, è il nostro sistema di difesa che ci mette lo zampino. Che cosa succede? Beh, innanzitutto succede che le cellule dell'immunità comunicano fra di loro come facciamo noi esseri umani, comunicano con parole che in gergo chiamiamo citochine, e comunicano toccandosi. Noi ti stringiamo la mano, ci abbracciamo. Ecco, le cellule dell'immunità fanno un po' la stessa cosa. Quando le molecole del dialogo sono fuori controllo, abbiamo un sistema immunitario fuori controllo che aggredisce noi stessi, e quindi abbiamo le malattie autoimmuni, o aggredisce degli innocenti. È quello che succede quando abbiamo l'asma causata dall'allergia ai pollini, come può succedere in questa stagione. Ecco, questi sono gli errori del sistema immunitario. Parole sbagliate. Quando parla vanvera, insomma, o non si fa capire. Il sistema immunitario che parla vanvera. Sì. Professore, per questo pazienti che soffrono di malattie autoimmuni e infiammatorie spesso non sono affetti da una sola di queste patologie. Chi è affetto ad artrite, ne abbiamo parlato in occasione del mese dedicato alle articolazioni con il professor Selmi, sempre di Humanitas, in questo progetto La Salute Vien Parlando che portiamo avanti con Humanitas. Dicevo che chi è affetto ad artrite, il professor Selmi ci spiegava che frequentemente sviluppa psoriasi o malattie infiammatorie intestinali. Questa complessità, professor Mantovani, richiede e impone necessariamente che la gestione venga affidata ad un team di professionisti. In questo caso, ad esempio, il reumatologo deve interfacciarsi con il dermatologo, con il gastroenterologo, e quindi figure che saranno sempre più chiamate a lavorare insieme. Noi pensiamo così, ce lo dicono i pazienti, come lei ha ricordato. Il 20% dei pazienti che ha una di queste malattie che lei ha menzionato ha in realtà problemi legati a una risposta immunitaria e infiammatoria fuori controllo che colpisce un altro organo. Quindi il paziente deve essere al centro e il paziente ha diritto ad avere le cure del miglior reumatologo e del miglior esperto in malattie infiammatorie intestinali e così via quando ce n'è bisogno. Per questo... Ed è in questa prospettiva che noi ci siamo mossi, proprio di mettere il paziente al centro. Con un centro proprio specifico che parte da voi in Humanitas per le malattie immunoinfiammatorie. Sì, abbiamo fatto partire un centro che chiamiamo Immuno Center, che è coordinato da Silvio Danese, che vede intorno uno dei massimi esperti in malattie del polmone, che è Walter Canonica, Selmi, che lei ha già ricordato, e il dermatologo, che è il professor Costanzo, proprio con l'idea di lavorare insieme, con il paziente al centro, fare ricerca insieme, perché molti dei meccanismi che sostengono queste parole sbagliate, le stesse parole sbagliate, sono condivise da malattie diverse e infine accelerare il trasferimento dell'innovazione terapeutica e diagnostica. Professor Mantovani, i progressi sono stati fatti, e ce ne sono stati fatti tanti progressi, ma soprattutto nella cura dei sintomi di queste malattie. Ma la sfida è intervenire prima che insorgano. Ci sono delle buone notizie? C'è qualche buona notizia, ma ancora molto lontana dal letto del paziente. Abbiamo una sfida fondamentale che è legata al fatto che queste malattie colpiscono in generale, non tutte, ma in generale, colpiscono prevalentemente il sesso femminile. Quasi l'80% dei pazienti sono donne, quindi abbiamo una sfida di una malattia di genere. E dobbiamo farci carico della salute femminile, perché, e lo ricordo a lei, ascoltatrici, perché le donne portano dal 60 all'80% del carico di sofferenza legata a malattia. Ecco, noi abbiamo la sfida di capire il perché. Per esempio, recentemente è stato scoperto un fattore trascrizionale, vuol dire una sorta di programma in un computer che viene acceso, un fattore trascrizionale che orchestra il deragliamento delle difese immunitarie. Questo è un progresso importante, ma è solo l'inizio di una storia, è una sfida che abbiamo davanti. Torniamo, professore, al sistema immunitario. Quando sbaglia bersaglio, parla vanvera, come abbiamo detto, e si dirige contro se stesso, iniziano i problemi. Ma, professore, a tutti si dà una seconda chance. E allora c'è modo di rieducare il sistema immunitario, insegnargli a parlare correttamente, a fare il suo lavoro senza sbagliare? Purtroppo in generale non abbiamo una strategia di rieducazione che funzioni. Per alcune malattie allergiche, per esempio, ci sono vaccini che aiutano a riportare nei ranghi le risposte immunitarie, ma per le malattie autoimmuni e autoinfiammatorie abbiamo fatto grandi progressi, straordinari progressi nel controllo della malattia. I pazienti con artrite reumatoide che non camminavano camminano, bloccando alcune di queste parole sbagliate, ma ancora non è a nostra portata di mano una strategia che rieduchi il sistema immunitario. Ci stiamo lavorando. Professore, mi scrive un ascoltatore via WhatsApp che ruolo svolge in tutto questo la permeabilità gastrica. Professore. Ma in generale dobbiamo ricordare che noi siamo abitati da microbi e siamo fatti più da microbi che da cellule nostre. Il 90% dell'informazione genetica che portiamo è data dai microbi, quindi i microbi ci accompagnano. Ci sono molte evidenze che suggeriscono che i microbi che ci accompagnano, che sono scelti e educano il sistema immunitario, sono scelti dal sistema immunitario che seleziona i buoni dai cattivi, e però educano il sistema immunitario. Ecco, ci sono tanti dati che suggeriscono che il mondo microbico e l'accesso di prodotti microbici al sistema immunitario è fondamentale per l'educazione del nostro sistema immunitario. Questa, in gergo lo chiamiamo il microbioma, è una delle frontiere della ricerca ed è una delle frontiere che vogliamo affrontare nel nuovo centro. Professor Mantovani, ha citato l'artrite reumatoide, alcuni ascoltatori, più di un messaggio, arrivano chiedendo se ci sono delle novità sulla fibromialgia, che sappiamo sia una malattia molto invalidante che pesa sulla qualità di vita del paziente. Professore. Direi che non ci sono, la fibromialgia è una malattia che pesa sulla qualità di vita dai contorni indistinti, ci sono delle novità molto importanti invece sull'artrite reumatoide che lei ha citato e sulle malattie infiammatorie intestinali, e penso sia interessante sapere che una delle novità deriva dallo studio di pazienti con immunodeficienza. Deriva da una scoperta italiana fatta da Anna Villa, che diversi anni fa ha scoperto che un enzima che si chiama JAK, quando manca, causa immunodeficienza. Questo ha stimolato a disegnare delle strategie per bloccare questo enzima. Ecco, i farmaci che bloccano questo enzima sono una grande speranza per il trattamento di queste malattie, noi siamo coinvolti nella loro sperimentazione, e penso sia bello pensare che la lezione è venuta dai pazienti ed è venuta da dei bambini con immunodeficienza. Grazie professor Mantovani per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata e soprattutto sempre noi dobbiamo credere e investire nella ricerca, buona ricerca. Grazie professore. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Allora, abbiamo avuto il piacere di avere uno dei massimi esperti, un grandissimo ricercatore che ha dato una grande svolta alla ricerca. Noi ci prepariamo però, Deborah, ad arrivare alla Scuola del Risparmio pronti e preparati. Allenati. Allora, brava, allenati, con il cervellino che funziona, bello attento. C'è uno studio interessante che commenteremo con un altro grande esperto, uno studio che parla dei benefici dell'attività fisica sul cervello. Vi voglio già anticipare che avremo con noi il dottor Filippo Ongaro, e per così dimostrarvi che vi dico il vero, dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno, sono qui. È qui, pronto a farci allenare, perché l'attività fisica, noi lo ripetiamo ogni giorno, bisogna muoversi, praticare un po' di attività fisica, perché non solamente per tirare giù la pancia in previsione della vista costume, della prova costume, ma soprattutto per investire in salute. Questo è un investimento, e a guadagnarci sarà anche il nostro cervello, le funzioni cognitive. Dottor Ongaro, ne parliamo subito dopo il GR. Intanto il dottor Ongaro l'abbiamo catturato e qua sta con noi. Arrivederci, a tra poco. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Allora ci prepariamo, brillanti, pronta, belli pronti, memoria, attenzione. No, tra l'altro creatività. Volevo anche dire che l'ospite di Investire Informati è uno sportivo. Eccolo, vogliamo salutarlo. Lo già. Vogliamo salutare, il dottor Gaudio di Banca Mediolanum. Buongiorno. Buongiorno. Quindi sarà molto, molto interessato anche alla prima parte del nostro programma. Allora, e noi in linea abbiamo un grande medico che è anche un grande sportivo, il dottor Ongaro. Eccola qui. Buongiorno, dottor Ongaro. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, noi partiamo da uno studio dell'Università di Canberra in Australia che ha preso in esame 39 precedenti studi ed è arrivata alla conclusione che per invecchiare bene ci vuole cervello. Allora, dottor Ongaro, ci vuole cervello e come sempre, e lo sottolineiamo in diverse occasioni, non bisogna stare fermi, bisogna cercare di coltivare una passione per un'attività sportiva. Dobbiamo in qualche modo rendercela amica. Dottor Ongaro, quindi si può scegliere tra il nuoto, la bicicletta oppure i pesi, ma qualcosa bisogna fare. Dottore. Sì, io credo che sia molto interessante notare come sempre più studi indichino sostanzialmente due cose. La prima è che per invecchiare bene effettivamente ci vuole il cervello, cioè che questa struttura, questo organo che tutti sappiamo essere il più importante sostanzialmente dell'organismo, per tanti anni è stato un po' trascurato in un'ottica preventiva e solo in tempi più recenti si comincia a parlare veramente della salute del cervello, della neuroplasticità, cioè della capacità del cervello di adattarsi agli stimoli e quasi proprio allenarsi come si allena un muscolo. No? E dall'altro lato quello che indubbiamente emerge è che l'attività fisica, che è sempre ormai da anni, da decadi, è stata considerata un pilastro della prevenzione del corpo, oggi si scopre essere un pilastro della prevenzione del cervello. E infatti... chi allena il fisico, bella. Possiamo dire così, dottor Ongaro, che chi allena il fisico allena la mente? Senza dubbio, ecco. E credo che questo sia dovuto sia al fatto che comunque il movimento, non bisogna mai dimenticarselo, richiede uno sforzo importante per il cervello di coordinazione, di facilitazione della contrazione muscolare, eccetera, ma anche perché oggi sappiamo che l'attività fisica produce o stimola la produzione di tante sostanze, due tra tutte che sono molto importanti, il BDNF e l'anandamide, che sono delle molecole che nel cervello hanno un'azione veramente di riparazione, di ricostruzione dei danni che si sono accumulati all'interno del tessuto nervoso. Quindi è veramente una cosa bellissima questo, che l'attività fisica alla fine funziona proprio su tutto. Tornando ai nostri ricercatori australiani, loro hanno diviso le discipline sportive in due grandi famiglie di cui parliamo spesso, quelle aerobiche e quelle di forza anaerobiche. Delle prime fanno parte la corsa, la camminata a passo svelto, il nuoto, la bicicletta, in genere insomma tutte le attività di cui parliamo spesso e che dovrebbero o potrebbero aiutare a ragionare meglio, mentre gli sport di forza, quelli pesi, quelli che facciamo in palestra, quelli che rafforzano i muscoli, soprattutto attraverso appunto anche l'uso di macchine, sarebbero più adatti ad allenare la memoria. Insomma, ad ognuno il suo, e io aggiungo, per chi decide di fare un mix, ecco l'uomo o la donna perfetti, nel fisico e nella mente, dottor Ongaro. In effetti, insomma, è da tanto che esistono dati di questo tipo. Noi abbiamo nella comunità medica posto sempre più attenzione, se vogliamo, all'attività di tipo aerobico, però ormai è da parecchio tempo che si sa che c'è un ruolo importante nell'ottica di prevenzione e di potenziamento della salute anche per l'attività invece più di forza e dei muscoli. E quello che abbiamo detto spesso anche qui in diretta è che in realtà ci vuole un mix di tutto, perché il corpo esprime tante capacità e tante facoltà e tutte noi dovremmo allenare per mantenerle attive, quindi certamente la parte metabolica cardiopolmonare è molto importante, ma anche la parte muscolare, così come quella della flessibilità, per esempio, no? Infatti, a proposito di flessibilità ed equilibrio, è interessante che da questa revisione di studi viene tra l'altro promosso a pieni voti il Tai Chi, coordinamento, precisione dei movimenti e anche, diciamo, relativa semplicità, sembrano rendere questa disciplina, che è vicina alle arti marziali, un elisir di lunga vita per i nostri neuroni. Insomma, una disciplina che viene, lo sappiamo, dal lontano oriente, ma che ci ha saputo conquistare e che noi possiamo praticare per fare bene al corpo e alla mente. Lei che cosa ne pensa? So che ha dedicato anche un post nel suo blog al Tai Chi. Lo pratica? Sì, diciamo non da grande esperto, però sono da sempre stato affascinato molto anche da questi approcci orientali, da partire dalle arti marziali e il Tai Chi fondamentalmente poi una derivazione di queste, proprio perché sono un po' l'esempio concreto di questa armonia, di questa fusione tra gestualità fisica e però anche aspetti psicologici, emotivi, quasi spirituali, se uno volesse seguire veramente la tendenza delle scuole orientali nel descrivere queste discipline. E in effetti esistono anche qui molti studi che dimostrano come questo tipo di pratica sia in grado di ridurre lo stress, di agevolare la gestione dell'ansia, di migliorare il tono dell'umore, e in un certo senso è anche una forma comunque di ginnastica, sono movimenti molto dolci. E quindi credo che sia importante esplorare tutte le possibilità e poi scegliere quello che ti è più piacevole, che è più consono ai tuoi gusti e che può diventare una pratica veramente continuativa. Tra l'altro ho letto che sabato 29 è la giornata mondiale del Tai Chi, ci sono tante iniziative in giro per l'Italia, magari la volta che lo proviamo anche noi. Allora Mirko da Vicenza ci scrive: salve, mi raccomando, mai parlare del Nordic Walking, dottor Ongaro. Allora, a parte che ne parliamo perché ci piace molto, ma Mirko può intervenire all'800240024 tutte le volte che vuole, dei post, dei podcast, delle trasmissioni, perché fatte. Per potenziare la memoria ci vogliono anche un po' di pesi. Il dottor Ongaro ce l'ha anticipato prima commentando lo studio australiano. Dottor Ongaro, un ode al Nordic Walking per Mirko, la dedichiamo? Sicuramente, io personalmente ne ho parlato molte volte, è una forma di attività di tipo aerobico che è sicuramente un passo in più rispetto alla semplice camminata, perché non a caso ha detto un passo in più, Mirko, esatto, sarà contento. Un passo in più perché l'utilizzo comunque dei bastoncini e il movimento ritmico delle braccia aggiunge una componente in più di attività, quindi benissimo, ha la caratteristica analoga della camminata di essere molto poco traumatico, questa è una cosa positiva, che è invece un po' il punto limitante della corsa, bellissima attività, però effettivamente può essere anche un po' logorante, soprattutto per chi non sa correre particolarmente bene, no? Quindi ottima, un'ottima scelta. Ottima, grazie Mirko per il messaggio, ma se vuole raccontarci le sue imprese noi siamo sempre felici di ascoltarle. E intanto un altro ascoltatore mi scrive: quindi il detto tutto muscoli e niente cervello non è più valido? Beh, dipende, dottor Ongaro. Lei se la ride? Perché se la ride? No, no, la rido perché lui ha un sacco di muscoli e teme di essere accusato. No, ma perché diciamo sono un po' quelle battute, vedete, ricorrenti, però se uno chiaramente per costruirsi i muscoli sacrifica la cura del proprio cervello e della propria cultura, certamente ne risentirà, però non è detto che debba essere così, ecco. Sforziamoci perché non lo sia, muscoli sani e cervello sano. Senta, dottor Ongaro, prima di salutarla, conta anche quello che mangiamo, non basta il pesce e il fosforo per renderci intelligenti, ma anche alcune sostanze contenute in particolari alimenti possono in qualche modo proteggere le nostre funzioni cognitive. Ce ne sono di alcune in particolare che lei vuole suggerirci per farci diventare belli, simpatici, intelligenti, muscolosi? In realtà il pesce è curioso perché c'è un po' questo mito del pesce, della memoria, del fosforo, che a quanto mi risulta non è molto attendibile. Non tanto perché il pesce non abbia fosforo, sì, ne ha, anche se non è uno degli alimenti che ne ha di più, ma perché il fosforo sembra che non c'entri nulla con la memoria. Però il pesce invece in quanto tale può esserci utile, in particolare l'ormai ultra famoso pesce azzurro, perché se c'è una sostanza particolarmente utile per il cervello sono gli acidi grassi omega 3, di cui il cervello è in parte costituito, in particolare un acido che si chiama docosaesanoico, che è uno degli omega 3. Il nome è impronunciabile, come si chiama? DHA, lo conosco, non sapevo, ecco, la parte lunga. È contenuto nel pesce azzurro ed è uno degli acidi grassi fondamentali proprio per la struttura del cervello, quindi questo può essere un esempio, ma ricordiamo anche che il cervello risente della nostra salute metabolica a 360 gradi, quindi se noi curiamo il metabolismo, il peso corporeo, la pressione, non fumiamo, non abusiamo di alcol, non esageriamo col sale, cioè tutte quelle regole che noi diamo per la salute sono regole anche per la salute cerebrale, senza ombra di dubbio. E anche per quella del cuore, perché quello che fa bene al cuore, certo, fa bene al cervello. Certo, bravissimo. Si vede che ho preso una bella dose di AK stamattina. Grazie, dottor Ongaro. Con che alimento l'hai assunto? Con le acciughe. Grazie. Di prima mattina, una bella acciughina al mattino. Cluck, anche per la voce, eh? C'è intervista sul nuovo set del Corriere questa settimana al sindaco di Torino, l'Appendino, che raccontava che lei in gioventù non amava il pesce spada, la mamma glielo appioppava a tavola a pranzo, lei non lo voleva mangiare, glielo riproponeva lì la sera, lei non lo mangiava, stava a digiuna tutto il giorno, la mamma glielo ripiazzava lì e a colazione, la fettina arrivava a colazione, se l'è mangiato. Quindi pensa, insomma, con le sue gambe arrivava. Va bene, vedi, allora, non ci sono più le mamme di una volta. No, infatti figurati se ti fanno trovare il pesce a colazione, l'acciuga soprattutto, per come si chiama la sostanza? DH. Dottor Gaudio, buongiorno. Abbiamo di che divertirci anche stamattina. No, prima di andare ai temi che ci siamo preparati, sì, quindi questo esame dei mercati finanziari, tema variabile politica, chi più ne ha più ne metta, stavo cercando di ricordare qual è l'attività sportiva che lei pratica, la corsa alla bicicletta, non me lo ricordo. Nuoto e ciclismo. Ecco, no, mi stavo chiedendo. E anche un po' di Nordic walking, no, dai. No, lo faccio, certo, per piacere all'ascoltatore, ma non no, lo mi pratico. Incuriosiva anche il fatto, le è mai capitato che magari a seguito di una bella nuotata o dopo una bella corsa in bicicletta abbia maturato un'idea vincente per il lavoro? Un'intuizione interessante che poi ha trasferito anche alla giornata di lavoro. Le posso dire che il beneficio che io sento dall'attività fisica che pratico spesso ora di pranzo, quindi nel mezzo dell'orario lavorativo, devo dire al pomeriggio lavoro molto meglio. La freschezza mentale, mi sento molto, molto più carico, quindi è assolutamente positivo. Ecco. Bisognerebbe, vedi, nella pausa pranzo andare a fare se noi ce la facciamo. Qua, una bella piscina. Ma senti, di Emmanuel Macron, che è stato detto di tutto, analizzata in lungo e in largo la sua vita privata, se sia uno sportivo o meno, mi pare che non sia venuta alla luce. No, ma non ha la faccia tanto da sportivo, non credo, vero? Non credo. Allora, non ho visto il muscolo guizzante sotto la camicia, perché qualche volta si intravede. Invece in questo caso non c'è. La signora Brigitte magari ne sa qualcosa di più di noi. Magari a lei piacciono, allora, un po' spolpatini. Sarà pure che è un bel ragazzo, però insomma ai mercati piace Macron, il leader centrista francese, che il 7 maggio se la vedrà al ballottaggio con la leader del Front National Marine Le Pen. Diciamo che il mercato però, così un po' a giudicare da quello che è successo in questi primi giorni, forse appare fin troppo confidente del fatto che verrà scelto lui come nuovo inquilino dell'Eliseo. C'è molta fiducia in questo senso. Vedremo tra qualche giorno. Intanto, ex ministro dell'economia del governo socialista di Valls, ex banchiere del gruppo Rothschild, dal punto di vista delle carte economiche che ha da giocarsi non gli manca nulla. C'è da capire se è consistente tutta l'ondata di euforia che la sua potenziale elezione ha generato fra gli operatori finanziari. Oltre a quello che però succede in Europa in questi giorni, non ci dimentichiamo anche il trend dall'altra parte dell'oceano. Wall Street, il mercato ha ripreso a correre, il Nasdaq ha messo a segno nuovo record proprio due giorni fa, ha conquistato per la prima volta nella storia quota 6.000 punti, quindi la tecnologia davvero euforica. In America gli investitori da un lato hanno brindato a trimestrali superiori alle stime di diverse blue chip e dall'altro anche l'America confida che il prossimo presidente francese sia Macron. Peraltro negli Stati Uniti ci sono tanti indicatori di uno stato di buona salute dell'economia americana, ricordiamo ancora il settore immobiliare, le vendite di case nuove a marzo sono state registrate ai massimi, anche i prezzi delle abitazioni misurati dall'indice Case-Shiller sono aumentati appunto più del previsto nelle principali 20 città americane. E infine, ciliegina sulla torta, il tema che oggi campeggia su tutti i giornali: Trump ha varato l'attesa riforma fiscale con una forte semplificazione di tutte le aliquote a carico dei cittadini e delle imprese. Insomma, il mercato sembra più attento a questi aspetti rispetto alle iniziative belliche in corso in diversi punti del pianeta. Insomma, una puntata particolarmente ricca della nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Macron piace al mercato, ma forse si stanno stappando le bottiglie con troppo anticipo. Va bene la presunta stabilità politica che la sua elezione potrà portare, ma in ogni caso, quale lettura dobbiamo dare rispetto all'entusiasmo che gli operatori hanno manifestato questa settimana? Sentiamo questa scheda che ha preparato il nostro Marco Lombardo. Non poteva che essere champagne e le borse hanno brindato senza troppe esitazioni in avvio di settimana ai risultati del primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Il 23,75% conquistato dall'europeista Emmanuel Macron, che ha superato la leader del Front National Marine Le Pen, ferma al 21,53%, ha tranquillizzato i mercati sull'esito del ballottaggio. Un cin cin che è valso lunedì un più 4,78% per Milano e una chiusura record per la Borsa di Parigi, tornata ai livelli del 2008. Un fiume di bollicine che sembra far dimenticare il venerdì nero di giugno, nel quale l'Europa si era svegliata senza la Gran Bretagna, con la famigerata Brexit divenuta realtà. Qualcuno fa notare che la partita non è ancora chiusa, con il Front National, che alla Brexit potrebbe far seguire una Frexit, ancora in gioco. Ma l'endorsement degli altri candidati per il centrista e i sondaggi che lo danno al 60% sembrano sufficienti a giustificare l'entusiasmo, che permane, anche se con un certo contegno in più, anche nei giorni successivi. Ed è così che il vecchio continente tira un sospiro di sollievo. Chi si interessa di politica o finanza può concentrarsi su Trump e sul suo nuovo piano fiscale. Tutti gli altri possono intrattenersi con il gossip sulla curiosa differenza d'età tra il neopresidente in pectore e la sua consorte. Un po' di ebbrezza che, si spera, non farà dimenticare del tutto che per il brindisi vero e proprio si deve attendere ancora fino alla notte del 7 maggio. Beh, tutta la colonna sonora con Peppino Di Capri che così un po' accompagna gli scenari finanziari internazionali. Abbiamo anche noi fatto la nostra scelta inedita appunto stamattina per Investire Informati. Dottor Gaudo, torniamo agli aspetti seri di tutto quello che è successo in questi giorni, non che non lo fosse la nostra scheda, insomma, però ci siamo voluti un pochino divertire. Che riflessioni ha maturato dopo questa attesa designazione, quantomeno dei candidati del primo turno, appunto delle presidenziali? Giustificata questa euforia del mercato o si sta davvero un po' brindando con largo anticipo, con troppo anticipo? Ma partiamo da un aspetto più generale. L'economia globale sta andando bene. Il Fondo Monetario Internazionale l'ha detto qualche giorno fa. Ci sono segnali di ripresa in Europa importanti, che anche il vostro giornale ha segnalato qualche giorno fa, in termini di ripresa degli ordini e ripresa del settore manifatturiero. Quello che mancava a festeggiare era il rischio politico, no? Quindi quello che poteva rovinare la festa era, diciamo, una soluzione delle elezioni che fosse in qualche modo sfavorevole alle logiche di mercato. Superato questo, è chiaro che non ci sono ostacoli a una ripresa forte dei mercati, e i mercati l'hanno in qualche modo segnalato, per cui trovo che sia abbastanza conseguente. Devo dire, la vittoria di Macron era abbastanza scontata, io credo che nessuno pensasse in verità. Però il testa a testa è stato abbastanza sì, però forte, diciamo, per tutta la sera. Il tema del primo turno dove arrivasse Le Pen e Macron, tutti l'avevano segnalato con, direi, una certa accuratezza. Credo anche che il prossimo turno, quindi il ballottaggio, sarà favorevole a Macron, anche se non credo con queste percentuali bulgare di cui si sta parlando, però credo che oggettivamente dovrebbe farcela, in quanto l'endorsement, come segnalava lei, degli altri candidati è pressoché totale, con l'eccezione di Mélenchon, che però, voglio dire, non so quanto... È un po' ignavo, non ha voluto prendere posizione. Esatto, per cui teoricamente dovrebbe andare tutto bene. Questa situazione positiva sta facendo recuperare in particolar modo la borsa italiana, che al solito a causa del peso dei titoli bancari era però rimasta indietro rispetto a tutte le altre, no? Con i progressi post primo turno francese, Milano si è riportata sui livelli di inizio 2016, Parigi addirittura è al top dal 2008. Allora, dottor Gaudio, va bene l'entusiasmo politico, va bene che abbiamo ancora la liquidità messa in circolo dalla Banca Centrale Europea, c'è ripresa economica generale, complessiva, globale, come indicava lei poco fa, ma c'è qualcos'altro da raccontare a proposito della sostanza? Le azioni europee che hanno preso il volo in questi giorni meritano davvero tutta questa attenzione? Ci sono dei solidi fondamentali su cui scommettere? Beh, teniamo in considerazione che se guardiamo l'indice europeo e guardiamo quindi il complessivo delle borse europee, guardiamo quello americano, dal 2007 ad oggi c'è ancora un gap a favore di quello americano molto importante, quindi diciamo di territorio da recuperare per le borse europee ce n'è ancora parecchio. Si consideri poi che l'Europa, ripeto, è in una fase di lenta ma progressiva ripresa. abbiamo una politica monetaria che resterà favorevole al mercato per il 2017-2018. Ripeto, eliminato quello che poteva essere un rischio di sistema, un rischio politico, effettivamente le condizioni sono favorevoli. Tassi sulle obbligazioni ancora molto basse, quindi non c'è un'alternativa di investimento all'azionario. Ecco, credo che tutto questo spinga favorevolmente i mercati. Confermare in qualche maniera questa sua affermazione, abbiamo visto anche quello che è successo in questi giorni sui titoli di Stato. Allora, sicuramente c'è stato un effetto positivo perché gli spread che si erano di nuovo riallargati tutti in maniera vistosa alla vigilia delle elezioni si sono ristretti immediatamente. Le aste italiane però confermano ancora una tendenza molto netta per i rendimenti delle obbligazioni governative ancora in territorio negativo. Oggi abbiamo altre operazioni sul mercato, fra un po' vedremo l'esito. Ieri, per quello che riguarda il bot semestrale, c'è stata una nuova tornata di rendimenti negativi con nuovi record in termini negativi, appunto meno 0,3260%, quindi su questo livello mi chiedo ancora, a parte chi ha necessità di tesoreria speciale, appunto compri queste scadenze. Detto questo, come lo valutiamo anche questo? Ma io credo che il tema dello spread italiano era legato agli eventi che abbiamo discusso prima, quindi c'è certamente un respiro di sollievo dopo il voto francese. Se devo dire, adesso l'Italia diventa diciamo l'unica nazione che teoricamente può scompaginare questo aspetto positivo, perché in effetti anche le elezioni tedesche dovrebbero andare, secondo i sondaggi, abbastanza bene. Quindi se non siamo noi a livello politico nell'Eurozona che roviniamo la festa, io credo che effettivamente la situazione sia positiva. I tassi di interesse a breve termine rimangono bassi perché sono legati alle politiche monetarie della BCE. Quelli a lungo termine, inflazione ce n'è pochina, c'è qualche segnale di ripresa, ma salutare, se vogliamo, nel senso che una ripresa leggera dell'inflazione vuol dire un'economia che ha un tono più solido, più sano. Quindi, ripeto, le condizioni di contorno sono positive. Indubbiamente non riesco, a parte, ripeto, il tema del rischio politico, a trovare delle condizioni negative in questa fase. A Francoforte oggi si riunisce il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea per prendere decisioni di politica monetaria, ma in realtà si prevede una riunione di routine. Le scelte saranno rinviate al prossimo vertice dell'8 giugno. Peraltro quella sarà la circostanza in cui, oltre a festeggiare il mio compleanno, Mario Draghi diffonderà anche le stime aggiornate su crescita e inflazione dell'Eurozona. E adesso ancora non gliel'ho chiesto, mi ha fatto capire che vorrebbe che io glielo facessi capire, poi va bene, ci penserò. Vada. Allora, in molti sottolineano che ad un certo punto, dottor Gaudio, bisognerà fare i conti con la politica monetaria della BCE. Un'eventuale riduzione del piano di stimoli monetari rischia di avere un impatto sul costo di rifinanziamento del debito, anche francese peraltro, e questo vale naturalmente anche per l'Italia, che è un paese che ha ampiamente beneficiato del piano di acquisti di titoli di Stato della Banca Centrale Europea. Questa rimodulazione del piano di stimoli monetari, che è già un po' in corso, ma insomma, secondo lei con che cosa dovremmo fare i conti più concretamente, prossimamente? Come dobbiamo prepararci a questo scenario? Io credo che il 2017, ripeto, dovrebbe scorrere, poi è sempre difficile fare previsioni, ma direi in maniera abbastanza tranquilla sui mercati. È chiaro che adesso tutta l'attenzione ai grandi investitori si sta spostando su 2018. 2018 perché ci sarà la prosecuzione delle politiche restrittive della Fed. Verso la seconda metà del 2018 effettivamente la BCE potrebbe cominciare ad annunciare un cambiamento della sua politica espansiva. Noi siamo un paese col 133% di debito pubblico su PIL, quindi abbiamo un bisogno importante di tassi che rimangano bassi. Così bassi, sì. Per cui è chiaro che potrebbe essere un anno un pochino più critico, considerato che poi è anche un anno elettorale per l'Italia, ammesso che non si voti prima. Quindi è evidente che l'attenzione adesso si sta già spostando, per chi investe a medio-lungo termine, su 2018. Quindi un anno come 2017 che dovrebbe scorrere bene, qualche non dico nuvola, ma attenzione critica nei confronti del prossimo anno indubbiamente c'è. E insomma, quali anni abbiamo avuto senza nuvole all'orizzonte? Esatto, qualche volta sono arrivate delle piogge, dei temporali molto importanti, qualche volta insomma poi il sereno a sorpresa è arrivato, ma insomma sono condizioni alle quali soprattutto gli operatori dei mercati finanziari sono abituati a gestire. Nel frattempo devo raccontarvi cosa succede in borsa stamattina. Ricordo ancora agli ascoltatori che se vogliono possono intervenire all'800 24 00 24 con qualche domanda sull'andamento dei mercati finanziari, su come stanno componendo adesso il proprio risparmio. C'è qualche dubbio che volete condividere con noi? C'è anche Luigi da Milano che sarebbe pronto con una domanda, magari se riescono a recuperarlo i ragazzi mi piacerebbe sentire questa sua richiesta appunto di consiglio. Poi avremo anche il domandone, oggi ci siamo veramente divertiti tantissimo con quello che vogliamo proporvi, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Today Trump is expected to pick Steve Mnuchin. Former Goldman Sachs executive Steve Mnuchin. Former Goldman Sachs executive Steve Mnuchin. Steven Mnuchin. Former Goldman Sachs executive Steven Mnuchin. Mnuchin led Trump's finance operations during the presidential campaign. Among them, Steven Mnuchin as Treasury Secretary. Allora, vabbè, che gli italiani siano un po' dei caproni in inglese a cominciare dalla sottoscritta. È noto, ma che anche gli americani non sappiano pronunciare bene il cognome del loro ministro dell'economia, questa figura scelta da Donald Trump, è veramente curioso. E lo avete sentito, lo ha dimostrato chiaramente questo video, di cui noi vi abbiamo fatto sentire ovviamente solo l'audio, pubblicato sul sito forward.com, riproposto anche sul nostro sito su Stream 24, lo abbiamo ascoltato, i cronisti delle TV americane vanno a tentativi ma non sanno esattamente pronunciare questo nome. Anch'io ho chiesto a tutti, lo abbiamo pronunciato in ogni modo, dottor Gaudio. Chiamiamo lui, scusa, chiamiamolo, Marco. Ci proveremo. Dai, dottor Gaudio, lei cosa dice? Vabbè, lo so che non è un tema fondamentale per la nostra esistenza. Ma io direi perché c'è la M allora, prima. Però insomma M. sono sempre nostre considerazioni. Io stamattina invito all'800 24 00 20, non è un domandone, però voglio sentire se c'è, visto che mi fanno sempre le pulci quando dico management o altre cose, voglio sentire l'espertone di inglese, ecco, che mi pronuncia il correttamente il nome noi del vogliamo, ministro. Dobbiamo appunto prendere suo cugino dell'economia. Saprà come si pronuncia poi il cognome, no? Cognome o non cognome, dottor Gaudio, qua negli Stati Uniti sono partiti con questa vera offensiva fiscale. La riforma fiscale finalmente tanto annunciata, appunto Trump l'ha varata. Ieri qualche dettaglio in più lo conosceremo più avanti. In ogni caso, maldestro quanto vogliamo, le sue cose le porta avanti, no? Come con la testa di Ariete, come si dice. Le piace questa semplificazione delle aliquote fiscali portata avanti, che alleggerisce il carico fiscale sulle imprese e sui contribuenti? Convince, mercato? Diciamo, il mercato era straconvinto, ed è il motivo per cui in qualche modo la borsa americana da novembre in poi ha avuto una performance straordinaria. È chiaro che le modalità di annuncio sono state abbastanza singolari, nel senso che fino a qualche giorno fa si pensava che si andasse a settembre. Poi Trump qualche giorno or sono ha dichiarato che invece ci sarebbe stata questa rivoluzione fiscale a brevissimo giro di posta, tant'è che pare da indiscrezioni che neanche i rappresentanti del Tesoro lo sapessero, tant'è che la riforma fiscale è stata presentata in un foglio A4 e basta, quindi senza dettagli, estremamente sintetica. Questo è quello che voglio, adesso portatemi avanti i dettagli. Ecco, pensateci voi, ecco. L'intendenza seguirà, come si dice, no? Quindi, ed è questo che per certi versi spiega anche un po' la reazione timida ieri del mercato, nel senso che poi i dettagli, come si dice, il diavolo sta nei dettagli, e i dettagli non ci sono. Poi certamente il passaggio di un'operazione di questo genere, che costerà 3.000 miliardi di dollari, ecco, in termini di maggiore deficit, dovrà passare al vaglio del Congresso, quindi non è detto che poi passi come è stata annunciata. Certamente Trump ha una fede incrollabile nel cosiddetto nella curva di Laffer, no? Quella dei tempi di Reagan, tanto richiamato in questi giorni, sì. Ovvero il fatto che io abbasso le tasse, alla fine cresce l'economia e in qualche modo mi ritornano le imposte con la crescita economica, quindi non è vero che ci sarà tutto questo deficit perché nel frattempo l'economia viene stimolata. Sì, io ci credo abbastanza, io credo che sicuramente la leva fiscale sia una leva molto importante. Qui abbiamo a livello internazionale un'enorme corsa a attirare le imprese, cioè quindi c'è una grande concorrenza fiscale nel mondo, l'Italia ne dovrà tenere conto perché sennò rischia di essere la nazione di rimanere indietro rispetto a questo, perché pensate, tornando alla Francia, la Francia ha un'imposizione fiscale sulle imprese più elevata dell'Italia, però è molto possibile che ad esempio Macron l'ha anche dichiarato tra le righe, faccia qualcosa in questa direzione per abbassare le imposte societarie. Se così facesse, noi resteremmo uno dei paesi tra i più importanti al mondo con le tasse societarie fiscale più alto, ecco, quindi bisogna starci attenti. Benissimo, sarà un grande tema anche questo di confronto politico per i prossimi mesi. Ritorniamo invece alle necessità di risparmio dei nostri ascoltatori, dottor Gaudio. Li abbiamo invitati e loro pronti hanno raccolto appunto il nostro invito a raccontarci un po' quelle che sono in questo momento le loro esigenze, le condividono con noi. Vediamo se possiamo dare ovviamente suggerimenti diretti, non possiamo darne, ma sicuramente provare ad indirizzare un po'. Ci possiamo almeno da questo punto di vista fare dei tentativi. Luigi da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità che ci date e volevo sottoporre al vostro esperto questo. Le faccio subito un esempio perché sennò poi è difficile capire. Ah bravo, no, noi ci piacciono. Ecco, allora, io devo gestire i beni di un parente che ce la procura e a suo tempo abbiamo comprato dei BTP scadenza 37 a 80, l'abbiamo venduti a 120. E rendevano il 4%, comunque. In che periodo li ha comprati, Luigi? Proprio nel periodo dello spread alle stelle, quando c'era, è stato recente questo investimento? Come? No. È stato recente questi BTP a questo prezzo? Quando li ha presi? Diciamo dal 2012 indietro, ecco, via. Adesso non infatti, sì, no, esatto, quando c'era quel fermento, certo, enorme, ecco, sui titoli, allora, di Stato. Siccome io da procuratore potrei passare anche ad amministratore di sostegno, dove vogliono solamente investimenti nazionali, insomma, ecco, BTP e cose del genere. Chiedevo la differenza, se io oggi vado sul mercato, perché dovrei investire una certa cifra, vado sul mercato e posso prendere dei BTP che costano 80-90 e non quelli che vengono emessi al 100. Certo. Io non riesco a capire questa differenza e qual è il rischio che io corro. Grazie, grazie Luigi. Dottor Gaudio. Allora, il prezzo di un BTP evidentemente è frutto di due aspetti fondamentali. Il primo, la cedola, quindi è chiaro che più la cedola è alta più il prezzo sale, e poi anche la durata temporale. È chiaro che qui il tema è più che altro del rischio prossimo sui BTP. Chi compra oggi dei BTP a lunga scadenza deve essere cosciente che sta comprando dei rendimenti pressoché ai minimi. E quindi se ci fosse effettivamente quello che abbiamo discusso prima, quindi un rialzo complessivo a livello globale dei rendimenti dei titoli di Stato, è chiaro che può esserci su questi titoli a lunga scadenza anche un rischio cosiddetto di tasso, quindi perdita in conto capitale. È evidente che qui quello che è importante è l'orizzonte temporale dell'investitore, che francamente dalla domanda non è risultato chiaro. Lui ha proprio un'esigenza di natura diversa, che è quella di amministrare i beni di questa persona, certo, di cui ha una procura. Qui è chiaro che c'è un tema anche di natura legale, certo. Chiaro che il titolo di Stato in queste occasioni è sicuramente lo strumento favorito. Esatto, diciamo che probabilmente ha bisogno di un reddito costante e quindi di non fare attività di carattere sicuramente non speculativo, ma neanche prendersi il minimo rischio. Se non c'è preoccupazione per quello che riguarda l'asse temporale, quindi può essere anche a lungo termine, è chiaro che i BTP a lunga scadenza sono quelli preferibili perché hanno ancora cedole relativamente elevate. Non mi risulta che ci siano dei BTP a 80 in questo momento, perché no. Diciamo, non credo neanche, ecco. Io però tra l'altro stavo pensando che oggi ad esempio il tesoro va sul mercato, certo, con questa operazione e colloca ad un determinato prezzo offrendo un determinato rendimento. Lo stesso titolo di Stato fra due giorni sul mercato secondario, però, dottor Gaudio, può essere, tanto per spiegare un po' agli ascoltatori la dinamica, acquistato ad un prezzo diverso rispetto a quella delle emissioni. Lui dice non capisco perché questo accada, perché poi alla fine c'è domanda ed offerta, è come un'azione che chiaramente a seconda dipende, di chi la vuole, di quanto la si vuole. Esatto, dipende poi anche dalle aspettative sui tassi di rendimento, sui tassi di interesse. Se io mi aspetto oggi compro un BTP a un certo prezzo, tra tre mesi ci sono delle attese forti di rialzo dei rendimenti, il prezzo potrebbe essere anche sensibilmente inferiore a quello, diciamo, di offerta sul mercato primario. Quindi questo, una volta che è emesso, entra nella logica di mercato, quindi le attese su quello che succede nel futuro. Allora, intanto, sì, fra un po' dobbiamo andare al traffico. Guarda, lo vedi che mi fanno sempre le pulci sulle pronunce in inglese, ma non si candida mica nessuno a dirci come si chiama il ministro dell'economia americano. Ma tanto, se lo sbagliano anche gli americani, siamo autorizzati anche noi. Luca da Mantova, senta, le faccio fare la sua domanda, poi le rispondiamo dopo il traffico. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luca da Mantova. Niente, chiedevo all'esperto, gentilmente, avendo un portafoglio da 25% obbligazione azionario e flessibile e un 10% monetario, più o meno. Chiedevo, in base a tutto quello che ha detto, mercati però alti, obbligazione alti, cosa fare in questo momento se uno deve investire un attimo? Luca, bella domanda, dipende tutto dalla domandona finale, a che cosa le serve questo denaro, lo può tenere lì, ci deve comprare casa dopo domani, ci deve mandare all'università i figli, l'orizzonte temporale, lo sta facendo per accantonare un pochino per la sua pensione, te l'ho detto che mi puoi tranquillamente sostituire, l'orizzonte temporale, io sul sistema immunitario con Mantovani non avrei saputo fare, tu non invece sei pienamente complementare a me. Luca, le proviamo a rispondere tra poco. Cuore e denari. Ma sì, oggi in realtà è un esercizio d'inglese più che un quizzone vero e proprio. Vorrei capire dagli ascoltatori se sanno pronunciare correttamente il nome del ministro dell'economia americano. Impronunciabile, di origine ebraica, insomma anche negli Stati Uniti la pronunciano... lo pronunciano diversamente. Dice il dottor Gaudio. Sì, certamente, caso, certo. Assolutamente. Sì. Oppure la Francesca da Milano, che è una signora che ci ha chiamato, che è un ex insegnante in inglese, magari lascerei giudicare lei. Esatto. Allora, abbiamo, dottor Gaudio, la considerazione di Luca da Mantova, che ci ha fatto la suddivisione del suo portafoglio per percentuale. Ci mette insieme anche il messaggio che su WhatsApp ha notato Nicoletta, di un ascoltatore che dice: io ho 30 anni, 10.000 euro. E chiede a noi: dove li mettereste voi in questo momento? Allora, se non sa che fare, può darli a noi. A fare un sacco di cene di qualità. Detto questo, senza essere brutali. Se ho ben capito, il signor Luca, 25% di azionario. 25% obbligazionario, un 10% perfetto, monetario, perfetto. Il resto flessibile, ha detto. Ma direi, adesso non conosco l'età e le esigenze dell'ascoltatore. L'età la recupero io perché ce l'abbiamo. Direi qua. Che 25%. 48 anni, quindi 25% il mio coetaneo. 25% di azionario per una persona che ha anche, come dire, un percorso professionale di vita ancora... Lungo, auspicabilmente lungo. Credo che sia comunque un portafoglio di natura assolutamente equilibrata, quindi non ci vedo nulla di che sia preoccupante al di là del livello dei mercati, anche perché poi il livello dei mercati, diciamo, nessuno conosce dove saranno tra 5 anni, quindi potrebbe essere tranquillamente anche molto più elevato dei livelli attuali, per cui io non vedo la necessità di modificarlo. Ecco, 25% di azionario con una componente obbligazionaria ben diversificata, un portafoglio ben costruito. Ecco, credo che non ci siano osservazioni particolari. È vero, i mercati azionari, in particolare alcuni, sono ai livelli massimi di tutti i tempi. Ripeto, da questo però non si può dedurre che non possano salire ancora. L'obbligazionario il meglio l'ha dato, però ripeto, se l'orizzonte temporale è giusto, è un portafoglio ben costruito. Per quanto riguarda dove mettere i 10.000 euro, anche qui mi questa è la domanda da quizzettone. Mi dispiace essere noioso, ma dipende sempre da che cosa si vuole fare con questi denari. Se una persona ha 30 anni, quindi è in un'età lavorativa di crescita, si faccia un bel pack, quindi anche su un prodotto con un contenuto azionario importante, e si costruisca una bella pensione integrativa. Scorta la gamba d'appoggio. Siamo in diretta su Facebook e non l'abbiamo ricordato. Ricordare. Esatto, gli ultimi minuti di tempo ancora con noi. per, se volete vederci, sono di spalle rispetto alla telecamera perché sto conversando col dottor Gaudio, ma lui è naturalmente invece bello inquadrato. Allora 800240024, continuate se volete a porci i vostri quesiti. Adesso sentiremo Gerardo dalla provincia di Verese, però prima abbiamo un po' trascurato questo tema latente di grande interesse invece per l'economia, dottor Gaudio, che è quello dell'inflazione, che ha cominciato a ridare segni di risveglio, quindi è cresciuta, denotando un po' quella crescita economica verso la quale stiamo provando a riportarci, quindi al momento è ancora una crescita fisiologica e positiva. Quando, secondo lei, dovremmo cominciare a considerare che sarà un problema per il nostro risparmio? Perché è quel fantasmino invisibile che molto poco i risparmiatori considerano, guardano solo ai rendimenti generati dai propri risparmi, e quanto invece l'inflazione rosicchia i rendimenti in genere non lo considerano. Oggi non lo considerano perché l'inflazione non c'è e ce n'è pochissima. Però quando dovrà cominciare ad essere considerato un problemuccio? Guardi, nel ragionevole futuro, diciamo 12 mesi, 18 mesi, non è un problema, quindi ci sarà probabilmente qualche rialzo di decimali che non preoccupa nessuno, ma le dico, il nostro è un mondo senza inflazione, nel senso che l'inflazione tipica, quella da salari, da costi, da mercati in qualche modo poco flessibili, è un qualche cosa che nel mondo globalizzato non esiste. L'unico rialzo dell'inflazione che abbiamo visto è perché il petrolio si è ripreso. Sì. E basta, quindi sostanzialmente l'inflazione resterà a livelli molto controllati. Ecco, ripeto, possiamo vedere qualche rialzino, però stiamo parlando di decimali. Allora, intanto, no, stavo guardando che c'è Gio da Palermo che ha la pronuncia esatta del nome del ministro dell'economia americano. E beh, ce lo sentiamo subito. Gio, buongiorno. Ma Gio, perché lei è un americano che sta lì a godersela in Sicilia? Sono un italo-americano, sì. Italo-americano. Ci dica un po', senta un po', allora, sentito intanto gli americani. Quotidianamente ascolto la NPR. Sì. Alla news la pronunciano il nome Mnuchin. Mnuchin, sì, esatto, come un po' diceva anche Vittorio Gaudio. Bene, esatto. Noi prendiamo il suo, ormai ufficialmente, ecco, per noi il ministro dell'economia. Una volta? Grazie. Ma lei è stabile qua, Joe, in Italia, oppure fa avanti e dietro dagli Stati Uniti? No, vabbè, ormai sono in pianta stabile qui da 30 e rotti anni. Ecco. Però ce l'ha ancora l'inflessione americana, sì, che faccio, ci piace molto, molto affascinante. Faccio il traduttore, quindi benissimo. Traduco quotidianamente. Nuchin, grazie. Grazie, Joe. Le grazie manderemo un bel regalo, naturalmente. Intanto sentiamo invece le esigenze di risparmio di Gerardo dalla provincia di Varese. Gerardo, buongiorno. Sì, ci siamo. Buongiorno. Ecco, volevo porre questa domanda al dottor Gaudio. Allora, io sono ho una quota, diciamo, ferma sul conto corrente, perché sono un tipo molto prudente, no? Ho un po' paura. E quindi li vuole vedere sempre lì, insomma, a portata di mano, che nessuno li tocchi. Esatto. E ho una parte di questi soldi appunto fermo sul conto e una piccola parte come obbligazionario, no? Che mi scade tra qualche anno, tra un paio d'anni, e ho un'amica che mi continua sempre a martellare, ma metti un po' sulle azioni, il famoso fai da te, e mi dice sempre: vedi, oggi ho guadagnato 200 euro, ho venduto questo, ho guadagnato 100 euro, e mi dice: Da investi. Sì, certo. E io, siccome sono un po' prudente, ho un po' titubanza. Allora, volevo chiedere... Cosa fa questa amica di lavoro intanto, Gerardo, nel senso che è un'esperta? È un'impiegata. Non è un consulente finanziario, però lei si documenta... No. Sì, diciamo è un... Il fai da te improvvisato, mettiamola così, perché non mi pare che abbia, diciamo, basi economiche. Ecco. Vabbè, e le è andata bene fino a... Io le dico anche una cosa, Gerardo: con tutto quello che le racconta, prenda anche un po' con le pinze, perché le persone, secondo lei, le direbbe che ha perso dei soldi investendo male? Le dice solo quando ha fatto delle operazioni che sono andate bene, quindi intanto prenda un po' con le pinze quello che le racconta. No, qua mi sorridono così, in studio, così, ma la finanza comportamentale, no, secondo me e sì. E poi ci pensi bene. No, ma... le persone si vergognano, queste le disavventure finanziarie non le raccontano. Prima raccontano cosa, sempre però, i loro problemi, Gerardo, di salute, esatto. Ma le disavventure finanziarie faccia no. Una bella chiacchierata con un buon consulente finanziario. Il fai da te, io dico di lasciarlo sempre a chi lo fa per professione, da dalla mattina alla sera conosce bene le dinamiche dei mercati finanziari, che sono sempre subdole e ricche di sorprese, non solo positive e opportunità, ma anche negative. Ecco, allora, intanto, abbiamo guadagnato un'ascoltatrice, perché l'amica di Gerardo non condivido questo atteggiamento. Detto questo, poi Gerardo fa quello che vuole, naturalmente, però allora intanto il rischio di lasciare per troppo tempo una somma troppo alta sul conto corrente. Andiamo al primo tema. Il rischio è un rischio opportunità, ovvero se io non ho bisogno di tutta questa liquidità perché non devo comprare una casa tra 6 mesi o fare un grande investimento tra poco, effettivamente rendiamoci conto che i tassi così bassi sul conto corrente resteranno ancora per tanto tempo. Quindi vuol dire non solo avere poca redditività oggi, ma anche tutto l'anno prossimo, chissà per quanto tempo. Quindi è chiaro che il costo opportunità di non potersi garantire uno standard di vita elevato, questo c'è. Secondo me dal conto corrente passare alle azioni è un bel salto, ci possono essere anche delle soluzioni intermedie molto sensate, quindi anche il mercato obbligazionario ad alto rendimento, dei prodotti bilanciati, diversificati, quindi non è necessario passare dal conto corrente a fare il trading sull'azionario. Infatti, sulle piccole, esatto, capitalizzazioni. Gerardo, non è quello il passaggio. C'è un mondo, esatto, di investimenti che si può sfruttare in maniera intelligente. Un mondo intermedio che, esatto. Senta, prima di salutarla volevo fare con lei una veloce considerazione su un tema di grande attualità per l'industria finanziaria: il lancio dei piani di risparmio che puntano sulle società italiane che richiedono appunto un mantenimento del capitale investito per almeno 5 anni in cambio di un regime fiscale praticamente azzerato. C'è una grande effervescenza in questo momento per questo comparto, quasi tutte le società di gestione si sono attrezzate per lanciare il proprio PIR, quindi una grande raccolta. Alcune criticità che stanno emergendo e che stanno sollevando un po' i giornalisti, naturalmente quelli più maliziosi, però insomma anche degli osservatori. Intanto questo fermento sta un po' mandando in bolla il settore delle piccole capitalizzazioni in borsa, primo, e poi stanno già partendo tutte le sofisticazioni dei PIR, gli ETF sui PIR, i PIR con dei contenuti un po' strani. Ci dà due raccomandazioni per investire correttamente su questo strumento di investimento se ci piace puntare sul mercato azionario domestico, dottor Gaudio? Ma allora, prima di tutto direi che è un'occasione di sistema che se non la sfruttiamo siamo realmente stupidi in Italia, mi consente il termine un po' forte, ma un'occasione molto importante per l'Italia, primo, e qui mi chiudo. Parlando delle criticità del mondo dei PIR, anche delle piccole e medie capitalizzazioni, prima di tutto teniamo conto che i fondi PIR non investono solo nelle small cap, nelle piccole capitalizzazioni, ma su tutto il mercato, e teoricamente hanno anche una componente che può essere investita fuori dall'Italia per quanto residuale. Secondo aspetto, ci sono prodotti PIR che non sono completamente azionari, quindi ormai ci sono prodotti PIR che sono adatti a tutti i profili di rischio. Terzo punto, si possono comprare anche prodotti PIR nella formula con dei piani di accumulo, ad esempio. Mm-hmm. Quindi in qualche modo spalmando nel tempo il rischio di mercato. Quindi non saremo protagonisti né responsabili di nessuna bolla individualmente. Però insomma, se questi sono i dubbi, prima di investire fateci chiacchierata con chi vi li suggerisce, e poi se non siete convinti, non è che nessuno vi tiene, come dico sempre, la pistola puntata alla tempia per fare delle cose, un sano no qualche volta ci sta lo stesso. Dottor Gaudio, ci rivediamo forse fra un mesetto, non so quando, a presto. Grazie a voi, a tutti. A domani, buona giornata.